Eccoci qua, sono sempre io, eh sì, dopo la maratona, la prima maratona con gli ex, esibizione bellissima quella degli ex, passiamo a una seconda band, stasera abbiamo i Quasar, che erroneamente ho scritto che erano di Mestre, invece sono di Treviso. Buonasera Quasar, avete fatto un buon viaggio. Buonasera, sì, benissimo. Sì. Benissimo, sì, sì. Quasar è una band che si è formata molto di recente, disco nuovo esce fra qualche giorno. Esattamente il 15. L'idea del Quasar, da dove nasce l'idea del Quasar? Benissimo, era una domanda che aspettavamo, immaginavamo. Ma noi, però è giusto. Quasi giusto. Come ispirazione anche psichedelica. Sì, verissimo, verissimo. Innanzitutto ci presentiamo. Andrea Cuzzolin, alla voce, sono cantante. Sì, sì. Poi abbiamo Edoardo Giommi, sì, a chitarra. Non c'è Marco Feltrin e Cristian Micheletto, che è il batterista. Batterista, però sono idealmente presenti. Sono idealmente presenti con noi. Spero anche siano all'ascolto. Perfetto. E Marco Borgato in regia. Abbiamo cambiato il regista. Benissimo. Da Flavio siamo passati a Marco, perché... Rock, lo spettacolo deve sempre continuare. Show must show go. Must go. Yes. Esattamente. Yes. Right. Ok, qua sarà allora. Allora, il nome nasce in questi termini. In pratica una nostra amica, una cantante che si chiama Marian Trapassi, possiamo anche dirlo, che conosce. Molto brava, sì. Ecco, lei ascoltando i provini del nostro lavoro, e siccome noi eravamo alla ricerca di un nome, non sapevamo bene come chiamarci, lei ci ha dato quest'idea. Quest'idea ci è piaciuta molto per due motivi. Il primo perché i Quasar sono delle galassie, sono le galassie tra le più luminose che ci sono. È vero. Le più luminose considerate, ma sono anche le più misteriose, per cui non si sa bene. E questa cosa ci ha molto intrigato, anche perché effettivamente anche nella nostra musica è difficile definire bene cosa siamo, nel senso che siamo continuamente alla ricerca di nuovi stimoli, e questo nome effettivamente ce ne siamo appropriati perché ci è piaciuto molto, quindi questo è il motivo. Dobbiamo dire, io ho sentito il vostro disco, è un'anteprima, il disco uscirà fra qualche giorno, il 15. È stata, sentendo i vostri pezzi, c'è qualcosa di misterioso. Innanzitutto la voce di Andrea è potente, la voce è forte, ma musicalmente ci sono delle ballate anche praticamente. Non dico delle ballate pop, non arrivo a questo, ci sono dei pezzi che, sì, il rock è il DNA, assolutamente il DNA, però ci sono delle variazioni, delle sfumature che portano a determinate musiche, non dico pop, ma molto, non dico delicate, abbastanza soavi, abbastanza... Che circondano, che danno una certa sensazione. Allora, è corretto tutto quello che hai detto, e nasce da questo presupposto. Noi non ci siamo mai chiesti a che tipo di genere potesse appartenere alla nostra musica. Abbiamo sempre pensato di suonare quello che ci piaceva, e quello che ne è venuto fuori ci siamo resi conto noi stessi nel momento stesso in cui abbiamo cominciato a scrivere le canzoni, a registrarle, che non c'era un genere ben definito, perché sicuramente le nostre influenze non sono dal rock, indubbiamente questo lo suoniamo e lo ascoltiamo. Certo. Ma sia io che Andrea che gli altri ragazzi siamo comunque appassionati anche di sonorità più melodiche, se vogliamo. Anche tra virgolette, perché la melodia esiste, viene fuori nei vostri nuovi pezzi, infatti. Però c'è sempre il rock davanti. Sempre, ma quello perché l'abbiamo sempre suonato e ci è sempre piaciuto. Però ascoltiamo anche la musica italiana. Allora, probabilmente quello che viene fuori è un insieme di cose. Per cui quando... Non voglio dire che ci limiti il termine rock, perché assolutamente non è così. Però non ci sentiamo di appartenere a un genere. A noi piace fare questa musica. Poi probabilmente assomiglia molto a un rock. Però è vero che presenta tutti degli aspetti anche melodici che probabilmente si avvicinano al pop, ed è vero quello che dici. Come da consuetudine, i Rockaway Live, stasera il martedì, abbiamo il secondo gruppo, il Quasar. Apriamo la finestra e presentiamo un primo pezzo. Il primo pezzo dell'album di esordio, si chiama Il Fiore. Lo sentiamo e poi ne parliamo. Benissimo. Ok? Rock Wave, l'onda del rock. E adesso sono pronto e sono qua per riprovare un gioco che non ha più il gusto di una. Siamo per noi, è ovvio che se vuoi, è ovvio che se vuoi, è ovvio che per noi, è ovvio che se vuoi. Blu Radio Veneto Rock. Eccoci qua. Abbiamo parlato, abbiamo sentito il brano d'apertura, il fiore di questo album che uscirà tra pochi giorni. Il fiore, come abbiamo scritto nella recensione della redazione di Rock Wave, dà l'esatta sensazione dell'equilibrio, cioè la musica rock potente, il finale è proprio, non dico hendrixiano, ma è potente, le chitarre che si sentono, il muro chitarristico che si sente, e questo gusto, questo tentativo di incastrare la melodia. Com'è il discorso, Andrea, visto che tu lo canti, lo porti avanti? La melodia fa parte della mia voce, perché io, in base al mio background musicale, mi piacciono tutti questi artisti che adoperano la voce sì con grinta, sì, ma soprattutto le linee melodiche un po' più raffinate, ecco. Per cui mi piace sempre aggiungere quella cosa un po', se vogliamo, meno rock, però in questo contesto risulta fortemente rock. Sì, fortemente rock, però come abbiamo detto con Edoardo, c'è questo tentativo riuscito di innestare la linea melodica. Sì. Non è che praticamente rallenti il discorso del rock, rock rimane assolutamente, sì, il DNA, sì, l'immagine è quella, però la melodia esiste, c'è sempre la melodia, non c'è poco da fare. Cosa dice Edoardo? Sono d'accordo, ma è la cosa che secondo me è interessante, che questa cosa non è mai ricercata da parte nostra, è estremamente naturale. Nello scrivere i pezzi, più delle volte io e Andrea, scrivendo, proponendo delle cose, ci ritroviamo molto a suonare una musica che appunto che segue un po' quei canoni di rock, di hard rock a cui noi ci facciamo riferimento, sì, soprattutto io e lui siamo due Zeppeliniani. Siete Zeppeliniani, sì, assolutamente. Però quando ci ritroviamo a scrivere ci piace, ci ritroviamo spesso a vedere che vengono fuori delle linee melodiche, cioè delle cose, come dici tu, che... E non rinneghiamo questo termine, cioè il termine pop che tu hai usato, che, cioè la musica, voglio dire, tra pop vuol dire popular, cioè, no, bravissimo, quindi, grandissimo, certo. Per cui non bisogna vergognare, cioè non bisognerebbe etichettare la musica, no, in generale, che so, benissimo che tu l'avevi, però hai citato cose che a noi ci appartengono e di cui siamo contenti. Poi ho letto sulla vostra presentazione, voi usate delay, riverberi, soprattutto i riverberi, e si sente, c'è poco da fare, sente, nel disco si sente, chiaramente qua hai portato la chitarra acustica, il discorso cambierà, però i riverberi si sente, dà una colorazione al vostro sound. Sì, io adesso qua voglio spezzare una lancia a favore, e so che ci ascolterà, bene, al nostro produttore artistico, che saluto e sicuramente mi sta ascoltando, che è Simone Chirilò, che conosciamo molto bene, che è il produttore artistico, insieme a Claudio Valente, che è un musicista, che è venuto qua a presentare il disco, ecco, qualche settimana fa, della Hard RMP, sì, che è la casa discografica che ci sta producendo, e devo dire che qua c'è molto l'impronta di Simone, perché noi avevamo arrangiato i pezzi e lui ci ha dato abbastanza quest'idea di provare, soprattutto per quanto riguarda la parte chitarristica, che quindi mi riguarda personalmente, ha cominciato a dirmi, siccome io con lui lavoro già da anni, lui ha capito che forse all'interno della nostra sonorità il mio modo di suonare, dovevo cambiare un po' il modo di suonare, è una sfida che mi è piaciuta moltissimo e mi ha fatto cambiare proprio in questa direzione. Io, appunto, che vengo da un rock anni 70, ma non tanto quello psichedelico, devo dire la verità, non ero molto, molto propenso all'utilizzo di molta effettistica, invece devo dire che lui ci ha molto spinto. Lui, il suono, dobbiamo riconoscerlo, e ce lo siamo sempre detto, appartiene anche a lui. Sì, perché lui è un maestro nel creare le sonorità. cioè sì, abbellire è un sonorità. Vero produttore artistico, esattamente un produttore artistico, sì. Da quel pezzo che voi avete costruito in sala di incisione, poi lentamente, progressivamente lui sì. lo sistema. Senz'altro. È per quello un produttore artistico sì, deve fare questo sì. Devo dire, è stato un lavoro lungo, noi siamo 3 anni che lavoriamo a questo lavoro, quindi abbiamo attraversato diverse fasi nella produzione di questo disco. E noi abbiamo cominciato a lavorare con Simone in questi ultimi 6 mesi in maniera molto ecco, e lui molto ha effettivamente dato un impulso in questa direzione molto forte alla nostra musica e ci è piaciuto molto, quindi siamo entrati anche ragionevolmente presto, dopo 2 o 3 mesi che abbiamo lavorato con lui, subito in studio, perché avevamo capito che i pezzi erano così come li avremmo voluti fare. Ma i pezzi che avevate scritto erano già pronti da diverso tempo? Erano pezzi o avete scritto dei pezzi proprio per il disco di adesso che uscirà come ripetiamo fra qualche giorno? Forse sì, forse no, cosa dice Andrea? Il singolo, no? Come vorrei, sì, forse il singolo è quello abbastanza recente, è quello più recente, sì. Che anche deve avere un'impronta sulla base di queste nuove indicazioni, fra l'altro, cioè, che ti ha dato Simone, sì, praticamente. Sì, però sì, le indicazioni di Simone sono queste: vi dà una mano più che indicare, vi sceglie una strada, vi apre una strada. Sì, sono cose che quel già produttore abbiamo... deve essere così, sì, no? Sì, esatto. Ripetendo. Sì, lui riesce a, devo dire, lui riesce a è riuscito a cogliere in noi. Quello che noi volevamo esprimere, che forse non riuscivamo ancora a capire, perché sai, quando tu lavori per 3 anni in una stessa canzone, non sì. so, a un certo punto arrivi a un momento in cui sei un po' saturo e hai bisogno di una voce esterna, di chi naturalmente certo. sei, che ti dà quell'input che magari tu ci sei passato vicino un sacco di volte, ma non l'hai mai colto. Ecco, Simone è arrivato e ha capito e ci ha fatto, provate ragazzi in questa direzione, e noi abbiamo capito che quello era quello che ci voleva. Lui collabora tuttora con noi, assolutamente, la casa discografica ci sta seguendo, noi siamo molto felici di questa cosa. Tra l'altro Simone come produttore artistico ha anche registrato il disco, cioè l'ha registrato lui il disco in studio con noi, quindi è stato molto presente in tutto questo progetto. Ho capito, benissimo. Io proporrei adesso, se tu prendi la chitarra, Flavio mi ha detto ok, prendi la chitarra e... suoniamo un pezzo live, così per dare una finestra, la finestra live. Prima abbiamo sentito la finestra dal punto di vista del disco, la finestra live. Cosa ci proponi? Cosa ci proponete? Quasar. Che pezzo sentiamo? Vai adesso? Andrea, decidi tu. Cosa avevamo detto? No, ho appena detto decidi tu, quindi devi decidere tu adesso, io sono a tua disposizione. Adesso il vocalist che deve vocalist decidere decide, cosa no? cantare. Okay. Facciamo Ali in fiamme. Ok. Io quel che vedo, questa cara e dolce verità, la mia fine qui è vicina, ma non per mia volontà. Vedere senza occhi, sentire senza pelle, è il dono che io nego alla sacra umanità. La tua via d'uscita resta la sola tua illusione. Danza sopra me, trasforma le mie ali e guardami negli occhi. Danza sopra me, trasforma le mie ali, trasforma le mie ali in fiamme. Mi è stato negato il permesso di vedere la luce degli angeli. Non sanno cosa è grande, non sanno cosa sono. Bellezza come resina che ti avvolge il cuore. Su lasciati cadere, su lasciati violare. La tua via d'uscita resta la sola tua illusione. Danza sopra me, trasforma le mie ali e guardami negli occhi. Danza sopra me, trasforma le mie ali, trasforma le mie ali in fiamme. allungato musicalmente parlando. Sì, l'hai allungato giustamente, hai, hai consentito ad Andrea di, sì, di tirare fuori la grinta, perché era un pezzo chiaramente un po' diverso nel, nel disco, una versione molto stringata ma molto potente, la caratteristica vostra come quella degli ex, anche loro, la caratteristica di potenza sonora, ma sempre nell'ottica della melodia, e questa è la chiave di volta di un disco, del disco che uscirà fra pochi giorni praticamente. Quanti anni, hai detto 3 anni di preparazione, sì, 3 anni di lavoro, di lavoro, ma continuamente avevate scritto pezzi, avete lasciato a perdere molti altri pezzi? Devo dire, questa è una cosa che per tutti coloro che fanno un disco probabilmente è nota, e nel momento in cui arrivi a registrare purtroppo inevitabilmente devi sacrificare cose, cioè noi abbiamo scelto, questo disco è fatto di 9 pezzi che noi avevamo è un più di un EP sicuramente, è più di un EP, no, certo. Allora noi abbiamo anche ragionato molto su questa cosa. Sì. Noi avevamo almeno 18 pezzi per il disco. E perché li abbiamo scartati? Non perché fossero pezzi che non ci piacevano, ma alla luce di questo cambiamento di cui parlavamo prima, questi erano i pezzi che più andavano nella direzione che ci apparteneva. Nella vostra ottica. Non abbiamo voluto mettere niente di più. Cioè, a volte, devo dire, io mi capita spesso di prendere... visto che anch'io ancora compro qualche CD. Sì, beh, è giusto che sia così. Mi capita di prendere dischi dove trovi 16, 18, 20 pezzi. E a volte ti accorgi come forse quel disco con 10 pezzi aveva detto quello che voleva dire l'artista. Sì. A volte c'è un po' la tendenza a voler esagerare. Allora noi non abbiamo voluto a tutti i costi fare un disco da 12, 3. Noi avevamo 9 pezzi che erano quelli che volevamo rappresentare in questo progetto. E abbiamo messo quelli e ne abbiamo lasciati altri da parte. Che probabilmente riprenderemo, riarrangeremo, certo. Però non ritenevamo opportuno perché andavano in una direzione diversa, proprio perché in 3 anni è cambiato abbastanza anche il nostro modo di vedere e di valutare la nostra musica. Ho capito, adesso c'è però la tendenza, giustamente, ho notato, che si arriva a un limite di pezzi di 10 pezzi. Sì. Adesso si è ritornato come una volta l'LP erano 10 canzoni praticamente, 10-11 canzoni al massimo. E adesso siamo ritornati a quel modo là di fare, perché probabilmente con 10 canzoni tutto si racchiude, si prende, si fa sentire, tutto concentrato, ma concentrato tutto in modo positivo. Tutto veloce, tutto sì, molto, certo. Come anche la musica di andare veloce. Troppa musica, forse qualche volta capita, qualche volta sì. Ma inevitabilmente anche la tua musica rispecchia quello che sei e dove vivi. Oggi siamo come tu, siamo in una società in cui tutto deve essere fatto velocemente e inevitabilmente la musica, che è quello che noi vogliamo dire, quello che sentiamo e quello che viviamo, probabilmente riflette anche questa cosa. Ma avete già provato nei live, avete già fatto qualche esibizione provando i pezzi nuovi praticamente, escluso l'incisione, non parlo dell'incisione. No, beh, noi adesso abbiamo in programma un po' di eventi dal vivo, per cui noi non ci siamo mai esibiti con la band. Io ed Edo in acustico ci siamo esibiti spesso, ma... Che dimensione era l'acustico? Come quella di stasera, oppure un po' più allargata, un po' più potente? No, era molto simile, sì. Sono cambiate un po' di cose, ma questo era il senso, e comunque la grinta è sempre quella, ecco. È cambiato molto l'elettrico, per cui con questa nuova formazione che abbiamo adesso, insomma, la parte elettrica è quella che ha cambiato completamente, e da dove sono nati i Quasar. Certo. Per cui adesso non abbiamo ancora... È stata creata la band con l'impulso elettrico, esatto. Dall'acustico si è passato all'elettrico, ma come abbiamo detto spesso e volentieri anche con gli ex prima, suonare in acustico e suonare in italiano è difficile, è molto difficile, non è facile. Infatti ci sono pochi spazi. Perché i gruppi... Posso dire una cosa? Dimmi. È difficilissimo. Esatto. Ma non è difficilissimo, e io adesso ho visto che ho l'opportunità di dirlo, non è difficilissimo perché non ci siano artisti che abbiano qualcosa da dire, ma è difficilissimo perché oggi, purtroppo, è la via più facile è quella presa. Cioè oggi noi veniamo da Treviso, ma abbiamo girato un pochino e sappiamo che la realtà è un po' comune dappertutto. Sì. Su 10 band ce ne sono 2-3 che fanno musica propria, ce ne sono 7-8 che fanno cover, esatto. O peggio, e lo dico qua, che sentiranno milioni di persone, ma sono orgoglioso, ma o più che fanno le tribute band, che sono, secondo il nostro punto di vista, di artisti, di musicisti, che si fanno il mazzo a scrivere, è la rovina della musica italiana, e la colpa è dei musicisti, ricordiamoci, non è colpa dei gestori, perché è un gestore che mi presenta, a cui io presento un mio progetto in cui gli riempio il locale, lui ha tutto il diritto di, di chiamare quella band là. Qual è il problema? E chiudo questa parentesi. No, che io conosco artisti bravissimi, sì, che si stanno rovinando a fare le tribute band, perché avrebbero idee loro, musica loro, cose bellissime, ma fanno le tribute band. Qual è il problema? Che io che vado a vedere una tribute band non vado a vedere quei musicisti, vado a cantare il mio cantante preferito, vado a cantare Vasco Rossi, vado a cantare, non vado a vedere chi lo suona, non mi interessa. È vero, hai ragione. Allora oggi qual è il problema? A Treviso come dappertutto, capiamo, perché io Milano è così dappertutto, certo, non è che a Treviso siamo diversi. No, no. Allora io vado a vedere anche musica di bassa qualità, ma però posso cantare Ligabue, posso cantare. Allora questo è il problema. Se nei musicisti nascesse la volontà di dire no, siamo noi i primi a combattere questa cosa, proponiamoci, se cominciamo a essere in 8 a proporre musica propria e in 2 a proporre le tribù, allora anche i gestori cominciano a aprire gli occhi. Noi stiamo veramente sudando per trovare il modo di suonare, stiamo sudando, e ripeto, non sudiamo perché chiediamo dei cachet altissimi, stiamo sudando perché giustamente un gestore di locale mi dice: guarda, io ho la programmazione per 3 mesi di tutte tribute band che mi fanno il pienone ogni sera, perché devo chiamare te, per quanto tu mi possa piacere? E lui ha ragione, lui fa il suo lavoro. Io dico, chi fa il nostro lavoro, che non è un lavoro, che è un amore, una passione, deve porsi queste domande. E questo secondo noi è il problema. Noi ci crediamo ancora, perché noi siamo, io e Andrea, da precedente, da altri progetti, veniamo anche da altri progetti musicali, abbiamo sempre creduto nell'arte. Oggi però ci troviamo in grossa difficoltà. Noi ringraziamo l'arte di averci prodotto, ringraziamo Simone Chivilori, ringraziamo Claudio Valenti, tutti coloro che ci stanno aiutando in questa cosa. Ma ci rendiamo conto che oggi la realtà è veramente complicata da questo punto di vista. Chiarissimo, è molto molto difficile tutto. Poi adesso che è uscito il nuovo disco di Vasco, ancora peggio. Ancora peggio. Sono già le tribute band pronte col nuovo singolo, certamente, il nuovo singolo di Vasco, e tutti vanno a cantarlo. Tutti vanno a cantare Vasco Rossi. Certamente. Chiedo scusa, l'ultima cosa, dimmi, che ancora trovo. Il bello è che tu vai a vedere le tribute band e li vedi vestiti come loro. Cioè vedi un sosia di Ligabue, un sosia di Poggi Pollini, il chitarrista, un sosia di Vasco, il sosia di Bono. Io non ne posso più di questi sosia. Ma non ne posso più, non perché magari... Perché, ripeto... Questa, io li conosco, moltissime tribute band, io so e sono bravissimi, ma conosco molto bene i musicisti che si suonano, ed è gente che avrebbe tantissimo da dire. Ma è più facile così, perché io non mi rompo le scatole, suono tutte le sere e prendo anche dei soldi. Certo. Chi se ne frega, però l'arte forse dovrebbe andare in un'altra direzione. È vero, è vero. A proposito di arte, sentiamo un altro pezzo vostro da disco. Mi pare che abbiamo scelto la traccia 3, mi pare. La 3, che è il singolo, sì, Come Vorrei. Ecco, questo, posso dire una parola breve? Questo è Come Vorrei, ed è effettivamente un pezzo degli ultimi che abbiamo scritto. Sì. E sicuramente questa, ecco, è una ballad, quando si faceva quel riferimento al fatto come la melodia possa entrare nella nostra musica, sicuramente questo è un pezzo che forse la può rappresentare in questi termini. E non a caso l'abbiamo scelto come singolo, perché, non, ripeto, non è... Non ci vergogniamo di avere dei pezzi che possono avere una, ecco, sì, questo voglio dire. Il rock nasce anche da il rock è anche una ballad qualche volta. Ok. Rock Wave, l'onda del rock. Salvarmi non conta più, il sogno di ogni uomo si nasconde nei suoi passi, che di terra avrà il respiro, di sasso il suo sorriso, e il miracolo che sei, non l'avevo visto mai. Come vorrei star calmo, mentre dentro tutto è fuori controllo. Come vorrei che sei arrogante e generosa. Oceano nei capelli e foreste dentro agli occhi. Dalla terra prendo i semi, dalla strada le parole. Eccoci qua, volutamente c'era un finale che ricordava cosa ricordava? Il nome della band o quasi, ricordava le queste galassie lontanissime, le galassie e misteriose. Benissimo. Mondi lontanissimi, lo diceva Battiato tanti anni fa, da un famoso disco, però questa ricerca del lontano, del non presente. Questo era il singolo, chiaramente ritorniamo al presente, questo era il singolo, molto accattivante, la tua voce si sente forte, potente e serve a coniugare, a collegare tutti gli altri elementi, gli altri musicisti della band. Come lo fate dal vivo un pezzo simile? O l'idea di farlo dal vivo con la band elettrica? Volutamente potente o volutamente pseudopotente, cioè melodico? Andrea? Lo si segue com'è nel disco band, praticamente. Sì. Non c'è una variazione, disco. Io intendo sempre perché... di capire nelle band quando vengono qua se variano dal vivo. No, per quanto riguarda questo pezzo qua, ha proprio uno spirito che è romantico per quanto mi riguarda, sì. Per cui non mi sento di farlo troppo potente. O lo devi far così. Così mi è venuto e così lo canto. Certo, certamente. La traccia numero 3, volutamente le tracce non vengono messe a caso, vengono messe in una certa maniera. Non so se è stata il consiglio di Simone, però avete messo la traccia numero 3, il singolo. Dopo una traccia, la prima traccia che era potente, c'è una traccia, non dico riflessiva, ma che cerca di avvolgere, melodica, tra virgolette, parlo sempre tra virgolette, perché qua la melodia è presente, sì, però non è la principale protagonista del disco. No. È vero. L'ordine del disco, anche questo, nasce da un'attenta osservazione, o meglio ancora, un attento ascolto. Mm. Noi abbiamo ascoltato i pezzi, girandoli in diverse posizioni, e effettivamente, come hai detto tu, arrivava a questo punto un pezzo come vorrei, che è quello che abbiamo sentito, che creava quest'attimo di rilassamento dopo un'iniziale energia che abbiamo dato. Quindi è corretto dire che anche le canzoni sono disposte secondo un ordine logico, per facilitare non tanto l'ascolto, ma dare proprio esprimere quello che noi volevamo dire. È vero quello che dice Andrea, finisco subito velocemente il discorso che lui ha detto. Proprio in questo pezzo noi abbiamo ragionato in un modo diverso su come eravamo abituati a ragionare, come musicisti rock, se vogliamo. Per questo era un pezzo che verso il finale ci spingeva a lanciarci, cioè a cominciare a suonare con rullante aperto, Charleston aperto, chitarra. E invece, e qua devo dire anche il consiglio dello stesso Simone, ma anche le nostre sensazioni, ci hanno spinto a dire no, rimaniamo qua, perché il pezzo è bello, perché nasce e gira sempre intorno a uno stesso filo musicale. Quindi qua si può riscontrare proprio la caratteristica di quello che volevamo dire. Ed è venuto proprio anche questo effetto, come dici tu, nel finale di Galassia, di Lontano. Quindi sì, siamo riusciti a centrare un po' quello che volevamo dire. Benissimo, state sempre ascoltando Rockway Live del martedì. Stasera con Maurizio Calzavara al microfono e in regia Marco Borgato, che ha preso il posto di Flavio Bilato. C'è stato il cambio. Ti ricordo il concerto del primo maggio, cioè il cambio tra le band. Anche noi abbiamo fatto un tipo di concerto, un veloce cambio tra gli Ex e i Quasa. I Quasa stasera qui a presentare live il loro disco che uscirà fra pochi giorni. Cosa sentiamo adesso live, Andrea? Adesso ascoltiamo tutti quanti assieme Vapore. Perfetto. Sole svaniscono e lo sai. Lacrime di tanto in tanto scendono e ti chiedi perché. Bianca anima ribelle, ora è nera realtà. Lasciati andare come sei, non senti questo odore, non vuoi questo torrone, e non c'è mai l'amore che volevi da bambina. A braccia aperte ti passo attraverso, ora sei vapore, vapore, vapore. Sola se è giusto con lui, luna illumina il figlio, è sempre lui che pagherà. Lasciati andare come sei, pretendi questo amore, stupisci il tuo dolore, e non c'è mai l'amore che volevi da bambina. A braccia aperte ti passo attraverso, ora sei vapore, vapore, vapore. C'è mai l'amore che volevi da bambina. A braccia aperte ti passo attraverso, ora sei, ora sei. E non c'è mai l'amore che volevi da bambina. Abbraccia aperte ti passo attraverso. fino all'ultima goccia, un applauso. Yes. Anche la Chiara che sta continuando a fare la fotografa anche per voi, e pure ancora le webcam. E fino all'ultima goccia, chiaramente, come era la tradizione di Rock Wave Live, fino all'ultimo secondo, perché non bisogna tagliare niente. Bravo. Chiaramente né i live né quando si sente la musica. Quindi un altro pezzo, Vapore, che era potente, sì, però aveva un testo un po' particolare. Sì. Andrea, dimmi, hai scritto te il testo? Sì, questo qui è un pezzo scritto interamente da me. E come dice il pezzo, è un'ode a questa ragazza, sì, fantomatica, no? Esattamente. Che cerca invano sempre quell'amore che voleva da bambina, mi ripeto, ma d'altronde... Questo è quello che ho pensato, che mi è ispirato. Getto, sì. I pezzi miei di solito li scrivo così, abbastanza di getto, sulla parte del ritornello, che è quella fondamentale, la fine del pezzo, quella portante. Poi la musica come è venuta? La musica, in questo caso, cantandomela, me la sono suonata, poi insieme a Edoardo abbiamo elaborato bene tutte quante le parti. E poi sono intervenuti Marco e Cristiano alla batteria, chiaramente. E il fulcro dei pezzi li scrivete voi due oppure è una questione di gruppo assieme? Beh, li scriviamo principalmente io e Edoardo adesso. E poi si portano chitarra e voce principalmente adesso con le nuove strumentazioni, la nuova tecnologia. Si usa, non facciamo pubblicità, ma è pieno di programmi che ti aiutano a scrivere musica interamente in casa, esatto, quindi li stiamo utilizzando anche noi, però sono a livello embrionale, è l'idea che poi viene sviluppata dalla band, bisogna dire che c'è sempre la band anche perché ripeto, in questa formazione siamo abbastanza giovani, cioè 3 anni che lavoriamo al progetto, ma con l'ultima formazione con i ragazzi, con Marco e Christian, sono da 6 mesi, quindi non abbiamo avuto moltissimo tempo per ragionare su canzoni nuove, ne abbiamo scritte in realtà, però il futuro effettivamente, come dicevamo all'inizio, non sappiamo dove andremo, e anche questo è lo stimolo che ci spinge moltissimo, perché abbiamo questa nuova sezione ritmica e siamo molto interessati anche noi a sapere cosa succederà, anche se ci stiamo dando del tempo. È una sfida, Edoardo. Sì, è verissimo, la musica deve essere anche una sfida di emozione, perché se ti accorgi che quello che fai è prevedibile, è scontato per te naturalmente, non per gli altri, probabilmente devi capire che rischia di finire questa cosa. Invece il fatto che sei sempre pronto a emozionarti nuovamente, anche vedendo magari sempre le stesse persone, certo, perché io lo dico qua, lui lo sa, quando lui facciamo il pezzino e lui comincia a cantarmi, io mi emoziono ancora. Allora questa è, secondo me, è la risposta. Sono 3 anni che ci sopportiamo, ecco, però ancora riusciamo a emozionare. E almeno io mi emoziono. Sì, tu ti emozioni con me? Quando ovvio, sì. Ma io voglio dire una cosa. Si vede che non è vero. Ti voglio bene. A proposito di questo, ti vedo con le webcam, ti stanno vedendo. Si vede che sei falsissimo, però. Non possiamo limonare. No, okay, benissimo. Moglie entrambi. Allora, questo è il progetto che si sta finalmente concludendo. Per fare un disco, arrivare a incidere un disco è una grande soddisfazione. È una grande fatica, ma verissimo, è una grande soddisfazione. È verissimo, guarda, è una grande soddisfazione. Ripeto, rispetto a tutti i discorsi che abbiamo fatto prima, diventa questa la grande soddisfazione che ti aspetti dalla musica, da quello che fai. Perché è chiaro, oggi la tecnologia ti dà la possibilità di entrare in studio quando vuoi. Sì. Oggi una persona che non canta può fare un disco. Okay. Questo è il vantaggio e lo svantaggio della tecnologia, che aiuta, ma può mettere in condizione anche persone che non sono musicisti di fare anche dei dischi. Certo. Noi però, per scelta, per volontà, siamo arrivati a questo disco quando eravamo pronti per farlo, non perché avevamo l'opportunità di farlo. Abbiamo trovato, e quindi per quello voglio dire, insomma, 3 anni sono tanti, non è che sono pochi nella vita di ognuno di noi. Grazie. E quindi siamo arrivati a questo disco, ma consapevoli che era il momento di farlo. E diventa una grande soddisfazione, perché tu vedi tutto quello che hai, che hai lavorato, tutte le emozioni, che si riversano in 45-47 minuti di musica, però io devo dire che ancora partiamolo a livello... Noi ascoltiamo il disco e ancora ci piace. Una cosa che ho letto nella biografia, voi fate i pezzi di 4 minuti, yes, secchi, 4 minuti, alla, non dico alla Sanremo, perché Sanremo sono 3 minuti e 50 massimo, 4 minuti secchi, perché in 4 minuti si può dire tutto. È così o non è così? Certo, è assolutamente così, sì. Quindi un po' più lungo il pezzo, no, ma non vuoi scartare. No, no. Scusa, posso andare? Dimmi. Prego. Noi avevamo canzoni che arrivavano a 7 minuti, 6 minuti. Allora, nel momento in cui siamo entrati in studio per riarrangiare, per ragionare sulle canzoni, davvero noi volevamo dare un'impressione, un'emozione forte. È scritto anche nella nostra biografia. Certo. I Quasar vogliono dare un'impressione forte, un'emozione immediata. Abbiamo veramente tolto tutto ciò che ci sembrava superfluo. Il che non vuol dire che abbiamo tolto tutto ciò che non è bello, perché a volte il superfluo può essere anche molto interessante. È vero. Ma abbiamo voluto veramente concentrare in queste canzoni, in 4 minuti, perché poi ci siamo, paradossalmente, ce ne siamo accorti dopo che questi pezzi duravano 4 minuti. Cioè, perché non ce lo siamo posti, e però ci siamo anche resi conto che è stato un processo a cui siamo arrivati alla fine di tagliare tutto quello che secondo noi non emozionava. Mm. Allora abbiamo lasciato tutto quello che dovevamo. E allora se ogni pezzo ci emoziona perché è così. Ripeto, noi usciamo con un disco di 9 pezzi, sì. E sono sicuro che qualcuno criticherà questa cosa, perché 9 pezzi possono sembrare pochi, e può sembrare che è un disco fatto di fretta, perché noi avevamo 18 pezzi, ma non abbiamo voluto mettere un pezzo di più, perché non ci stava un pezzo di più in questo disco. Ho capito. E non ci stava un minuto in più di musica. Questo naturalmente è sulla nostra pelle, pronti a essere criticati su questo, ma garantisco che è una scelta consapevole, e che, voglio dire, francamente, non abbiamo paura di affrontare anche critiche da questo punto di vista. Quindi il progetto deve essere perché così. Ci crediamo in questa musica e ci piace farla così. Benissimo, sentiamo un altro pezzo del progetto, allora. L'altra traccia che abbiamo scelto, Marco, la traccia numero 4 praticamente. Colpevole. Colpevole, esatto, la sentiamo. Rock Wave, l'onda del rock. We'll Rock Wave, l'onda. Eccoci qua. Abbiamo sentito allora Colpevole, che è la traccia numero 4. E da Come Vorrei è una traccia diversa. Chiaramente Come Vorrei c'è stato, non dico l'acceleratore si è un po' levato da decelerato, possiamo dire questo. E come Colpevole riprende la foga musicale, ma la foga del rock, la foga dei Quasar. Vero Andrea? Sempre con la parte melodica. Sì, sempre con la parte melodica. Però questo pezzo qua è piuttosto accentuato. La parte melodica esiste, sì, c'è quel riff melodico, perché non è scomparso. Però stavolta hai lasciato poco spazio alla melodia in questo pezzo. Hai voluto premere. Bisogna spingere, perché bisogna dare sempre una valvola di sfogo a questa anima ruggente. Un po' colpevole. Distinguere. Già, dal titolo Colpevole, da... di potenza e anche di non dico di rassegnazione, no, perché non colpevole, però potenza no, sì. Perché voglio essere colpevole. Vuoi essere colpevole. Sì. Ok, adesso sono le 23:22, facciamo questo giochetto che abbiamo fatto con gli ex, i famosi dischi da portare su un'isola deserta, l'isola di Rock Wave, non è l'isola dei famosi, è l'isola di Rock Wave. Vai, chi comincia? Ma allora io vorrei cominciare io, perché voglio subito prendere al posto di Edo nel citare i dischi delle Zeppelin. Non è proprio così, vuoi fare 1, 2, 3, 4? Citiamo un disco dei Led Zeppelin. Dai. No, allora dai, prenderei il primo disco. Okay, assolutamente il primo. Sì, il primo, perché la... Io prendo il secondo, io prendo Led Zeppelin 2, tu prendi siamo 2. A posto. Vabbè, abbiamo, okay. Abbiamo tutto. Siamo zeppeliani, ok, sì, possiamo dirlo. Primo album di Led. Famoso primo disco del Digigibile, perché che ha esploso in tutte le classifiche mondiali in pochissimo tempo. Esatto, perché quello il disco, i primi dischi di solito sono sempre quelli dove uno cerca di dare tutto se stesso, al di là, sì, fregandosene di tutto il resto. Certo, quindi Led Zeppelin numero uno. Poi? Sì, poi passerei senza ombra di dubbio ai Queen. Quale dei Queen? Ne sono fatti tanti. Bella domanda. I primi album, a proposito di Queen, sai che sono stati ristampati proprio di recente nella ennesima versione deluxe. A Marco non interessa assolutamente la versione non lo sapevo. I primi, sì, quelli ti interessano, i primi, sì, a Marco interessano i primi sono decisamente rock. Molto anche rock, punk sì. In qualche momento. Volte, sì, i primi, sì. I primi primo secondo, dopo chiaramente le cose sono cambiate perché il successo planetario di Bohemian Rhapsody ha cambiato le cose, però sono stati ristampati in versione deluxe, quindi dici che periodo dei Queen, i primi o quelli di mezzo alla fine? Chiaro che a me i Queen piacciono tutti, però come istinto vado sempre negli anni 70, vado sempre a prendere ispirazioni lì, quindi i Queen. Poi? Ecco, poi ne abbiamo tre da scegliere. Abbiamo tre. Led, Queen, poi... E allora Appetite for Destruction dei Guns N' Roses. Ah, adesso parliamo di un album decisamente molto... No, famosissimo in ogni caso. Sì. Ha portato degli certe strade, ha iniziato certe strade, poi si sono persi loro praticamente. Sì, si sono persi per i soliti di soldi, questioni di immagine, tante altre cose. Mille casini litigi. Dei rockettari. Però l'ultimo disco cosa ne pensi? È stato un flop colossale. Dell'ultimo disco? Dei Guns N' Roses? Sì, io ce l'ho. Ce l'hai? Non ti è piaciuto? Non è ne ascoltare. Mancava però uno. Tecnicamente è suonato benissimo. Sì. Lui ha preso dei chitarristi eccezionali, perché è rimasto solo... È solo lui? Solo lui. Però il disco non è eccezionale, a me non è convinto. A me ha convinto molto, convince molto di più invece il percorso che ha fatto Slash con i Velvet Revolver, la band. Esatto. Loro convincono molto di più per alcuni. No, guardavo Marco che è un grosso... Lui invece ha... Cosa dice di Velvet Revolver? Cosa dici? Evidentemente Marco, il nostro regista, è un rockettaro di primo ordine. Beh, allora, Appetite for Destruction è un album meraviglioso perché lì Axl ha una variazione di tono tra una canzone e l'altra che è micidiale. Ed è suonato benissimo. Il resto stendiamo un velo pietoso. Sull'ultima. Nonostante i miliardi di dollari che hanno speso. Sono d'accordo invece col discorso di Slash, che oltre ai Velvet Revolver, anche l'esercizio che ha fatto con l'ultimo disco, dove tra l'altro è andato a prendere anche il cantante di quel gruppo australiano, adesso mi sfugge il nome, dei Wolf Mother, che ha fatto bellissimo. Secondo me quella è un'idea molto positiva, a prescindere che poi lui possa piacere o meno. Tra l'altro ho anche letto che Slash e il biondo, che non so come mi ricordo più come si chiama, MacDuff, hanno fatto bassista, sono andati in discussione col col cantante degli Stone Temple Pilots, di cui parlerò adesso, sì, bravo. Una delle mie band. Mentre io, se devo scegliere, lo dico, se devo scegliere tra i Guns N' Roses e Stone Temple Pilots, preferisco gli Stone Temple Pilots. Anch'io, tutta grandissimo. Io e te siamo uguali, sì, grande. Sì, e ti confermo che tutto quello che hai detto prima sulle tribute band, sono pienamente d'accordo. Grazie. Con te. Un applauso. Pienamente d'accordo con te. Siamo in due, allora. Però l'unica cosa che secondo me anche i gestori in qualche modo hanno un po' di colpa, perché bisogna avere anche il coraggio di dire, sì, di no a certi gruppi. Ma oggi il coraggio manca in tutto, esatto, come tu in vedi. Tutto. In tutte le scelte cinematografiche, certo, musicali, televisive, artistiche, non c'è più il coraggio. Ah, certo, ma non poco, c'è il coraggio, no, c'è pigrizia, c'è, sì, pigrizia. Bravo, e comunque, bravo, perché è tutto facile. Esatto. Sembra sempre che si torni là, ma è tutto facile. Allora, è più facile fare un disco che fare un film scontato che vedranno tutti senza avere idee, però è più facile, intanto così io campo. E una volta non era così, come tutti sappiamo, una volta basta vedere anche nel mondo cinematografico gli anni 70, sì, sì, sì, sono uscite cose che nessuno avrebbe osato fare, però c'era chi osava, chi ci credeva, è vero, ci credevano i musicisti, ci credevano i registi, ci credevano gli attori, ci credevano anche i produttori, è vero. E più delle volte... Sì, ma anche oggi la discografia italiana, nessuno produce più. Le case discografiche grandi, le famose major, sì, producono chi esce, no, dai, ma dai, non producono più. No, gli unici che sono prodotti sono chi esce da X Factor, si può dire, no? Sì, da Micio da X Factor. No, non si può, no, non si può dire. Ma posso dire i miei tre dischi? Posso dire i miei tre dischi? Sì, vai. Così. Allora io porto le Zeppelin 2, perché tu hai detto uno, io porto il 2. Ok, Moby Dick, porti Moby Dick. Moby Dick è nel 3. Scusa, Moby Dick è nel 2, dove c'è una lotta love. Moby Dick è nel 2. Moby Dick è nel 2. Moby Dick è nel 2. Per fortuna che te lo porti via. Moby Dick è nel 2. Non amo moltissimo gli assoli di batteria. Se lo porta via apposta, se lo porta via apposta, così me lo riascolto. Forse me lo devo riascoltare. Ok, 2, le Zeppelin 2. Poi porto. Porto l'ultimo disco degli Stone Temple Pilots, l'ultimo, che non è il più bello, però per me è molto rappresentativo di una cosa. Allora, e noi siamo stati l'anno scorso io e lui a vederli a Milano. Allora, vedere questi non più giovanotti, ma che hanno ancora davvero qualcosa da dire, musicalmente parlando, mi ha molto, torniamo sempre là, emozionato, mi è molto piaciuto. Quindi non è il miglior disco degli Stone, ma me lo porterei perché penso che meriti, ed è uno dei pochi dischi che ho comprato l'anno scorso, è stato loro, perché è una band che anch'io amo moltissimo e mi piace molto il modo in cui suonano e anche il modo in cui e il disco mi è piaciuto. Sì, c'è da dire che il primo disco degli Stone Temple Pilots era un po' è un bel disco, suonato bene, però era un po' un mischiotto, sì, tra, certo, Pearl Jam e tutti i gruppi del canale al momento. Si sono sempre portati dietro quest'idea di essere un gruppo grunge che faceva il verso esatto, ai più però famosi. Poi hanno avuto il coraggio di cambiare, mollare quel cliché là. Dal terzo disco in poi. Ecco, esatto. Sì. E l'ultimo disco che vorrei portare è un disco di musica italiana di un artista che a me piace molto, che è Alberto Fortis. Il disco si chiama Tra Demonio e Santità, è il secondo disco. Bello. Siccome quello è un musicista che io a me piace molto, perché appunto, come abbiamo detto, noi ogni tanto ascoltiamo anche musica e ci piace. Ecco, lui è anche lui è uno di quei musicisti che fanno i dischi quando hanno qualcosa da dire. Per quello è stato messo da parte per un sacco di anni. Infatti adesso oggi non ha, e sta facendo ancora bei dischi, perché sì, io ho sentito anche 2 anni fa uscito, sì, una fatto, sua, sì, è uscito di recente, recente però sì, qualche anno fa, ma mi pare che sia già in procinto di fare un nuovo disco lui. Potrebbe, e in ogni caso sì, il discorso è proprio questo: lui aveva avuto il grande successo, poi ha deciso di fare quello che amava fare, non quello che la casa discografica imponeva di fare, e difatti i risultati l'hanno messo da parte, e tantissimi altri, cioè purtroppo è la legge del mercato, ma è una legge del mercato, insomma, sì, a cui stanno tutti, capiamoci. Io voglio essere chiaro, non è che il mercato, veramente, quando tante volte si sente dire il pubblico è l'unica cosa che tu non puoi giudicare, nel senso, io non dico che la gente non sa ascoltare la musica, non è questo, perché voglio dire, io ho tanto di rispetto per chi vende milioni di dischi. Sì, ma non si vendono più adesso. Che non si vendono, assolutamente, certo, adesso non si vendono più nei milioni di dischi, ma è come arrivi a questo. Allora io almeno, che poi magari mi sbaglio, a volte hai veramente la sensazione che qualcuno ti stia prendendo in giro nel cantare certe cose, che probabilmente non ci credono neanche loro, perché non li rappresentano. Poi, tanto di cappello, voglio dire, se qualcuno riesce con questo a vendere milioni di dischi, a fare tutto quello che vuole, perché poi alla fine nessuno nega che anche a me piacerebbe vivere di musica, perché è la cosa che amo di più al mondo, per cui se io vendessi un milione di dischi e potessi vivere di musica, sarei felicissimo, certo, non certo, lo nego, non ho l'ambizione di dire no, io voglio vendere 1000 copie perché così questo mi fa figo, mi fa indipendente, no, io se il mio disco riesce a vendere, certo, sono contentissimo. Però io credo veramente che oggi siamo di fronte a una situazione in cui allora non ci sono più cantautori, non ci sono interpreti. Oggi se noi vediamo ci sono soprattutto interpreti che sicuramente sono bravissimi, ma manca qualcuno che venga a proporti qualcosa, secondo me, sai, di estremamente interessante. A volte ci sono, perché devo dire che non voglio generalizzare la cosa, però sono più gli artisti che a me personalmente non convincono nel vederli cantare, nel vedere dire le cose. Però è anche giusto così, noi siamo in questo gioco, allora, e io ci sto dentro, non me ne voglio tirar fuori, noi non ce ne tiriamo fuori in ogni caso. Perché tu hai detto una cosa giusta per ritornare al discorso iniziale, perché è difficile scrivere, è più facile cantare. Molto difficile scrivere. Quello. Molto difficile scrivere. Non ci sono più gli scrittori della musica. È molto difficile scrivere, perché chi scrive... sì, io ripeto, e soprattutto in italiano, che certo, è ancora più difficile. Chi scrive non si deve accontentare. Almeno il nostro processo parte da questo... Non ci accontentiamo della semplice ispirazione, ma allora davvero noi sembra sui testi, sì. Uno potrebbe dire, ma sembrano scritti in due minuti. Credete, noi ci abbiamo lavorato tanto, ci abbiamo ragionato, cioè nel mio modo di scrivere, ma anche in quello di Andrea, io sono veramente pronto a buttare via una frase. Un testo intero se una frase non mi suona. Ho capito. Magari forse qualcuno penserà che io, uno psichiatra mi darà per del maniaco, vedrà in me una sindrome maniacale, quindi questo possono chiamare, sono pronto a fare, però davvero noi la pensiamo così, perché questo dà soddisfazione, certo. Questo ci fa, insomma, almeno per noi funziona così, allora la vecchia storia che il lavoro premia, è vero, cioè il lavoro è la cosa che ha senso fare, e poi la musica può essere bella, perché può essere brutta, può piacere, puoi avere delle idee nuove, io so benissimo, questo disco non ha pretese di essere originale, allora non vorrei essere prolisso, ma finisco, tante volte si sente parlare di originalità, è una cosa molto complicata, io non ho, credo che un artista non scriva per avere la pretesa di essere originale, e l'originalità la puoi trovare veramente in artisti che scrivono canzoni di 3 accordi, sì. Ma avere qualcosa da dire, allora ci sono cantanti italiani che scrivono del pop che sono estremamente originali, perché hanno qualcosa da dire. Ci sono band di rock, non solo italiano, che io conosco, ascolto, che davvero pensano di essere indipendenti, originali, ma non lo sono in realtà. Noi faccio l'ultimo esempio, l'altro giorno con Andrea discutevamo di questa cosa. Morgan, che tutti conoscete, ha fatto un esempio che a noi è piaciuto molto, ha spiegato come la canzone Motocicletta di Lucio Battisti, 3 HP, il tempo di morire di Lucio Battisti, con la frase motocicletta, sì, è una canzone che sarebbe facilissimo suonare rock, perché nasce da un giro di blues sostanzialmente. La bellezza di quel pezzo è l'idea geniale di Battisti e Mogol, che loro l'hanno saputa suonare non rock. Che se uno ci pensa è molto più difficile. Se tu prendi una chitarra e cominci a suonare Il tempo di morire, ti viene da spingere. Loro sono riusciti a incanalarla quella secondo noi è arte. Ecco, per me quella è arte, diventa arte quando raggiunge questo livello. E Battisti era un artista a tutti i sensi. In tutti i sensi. Suoniamo adesso, cosa suoniamo? Yuhu. Beh, adesso penso sia il momento di Luce, no? Di Luce, non è Luce dall'est di Lucio, ma è la luce vostra. Sì. Ma sulla pelle ho ancora sangue. Se a volte nella vita è utile morire, uccidimi, ho voglia di impazzire. Quest'aria pura fa sentire libero, lontano dal brusio di quegli insetti. Ostentata stupidità, ma un giorno, quel giorno arriverà, e una luce incredibile sgorgerà. luce incredibile sgorga. È una luce incredibile. Nella porta azzurra io mi rifletto e per la prima volta io mi vedo. Io mi vedo. È una luce. Incredibile sgorga. È una luce incredibile sgorga. Questo era un pezzo che ero tentato di scegliere come pezzo più originale, pezzo migliore dell'album. Mi è venuto in anche mente. Noi ce l'avevamo pensato sinceramente. Sì, pensato. Dopo non so se fosse stato un singolo anche come idea. È un pezzo molto interessante, cantato bene, stasera Andrea l'ha cantato benissimo. Sì, avevo scelto proprio, avevo questa idea qua, come pezzo trainante per me. Io lo vedevo in questi, sotto questi termini. Ma ha diversi volti. Questo qua o piace o non piace. Per cui non c'è mezza misura. Dai pareri che ho sentito, poi a me piace tantissimo anche, anche a Edo. Per cui. Chiaramente. E, su questo pezzo c'è chi proprio lo osanna e chi passa inosservato praticamente. Per cui. Musicalmente è giusto che ci siano i diversi pareri. Se sei un parere solo, no, vuol dire che non va bene. Certo. Ci devono essere i pareri diversi. No, ma in questo caso sono estremi, da quello che abbiamo. O piace o non piace, chiaramente. Sì. Parlando della tecnologia, tu hai parlato prima, Edoardo, cosa ne pensi del nuovo disco dei Radiohead? Bellissimo, molto difficile, 8 pezzi solamente. Ancora una volta messo prima in internet e poi dopo pubblicato in CD. Allora, io qua ho un'idea sui Radiohead che sarò... Non so se Marco può intervenire anche lui. Marco, voglio sentire anche la... Allora, no, io la dico... Premetto che il disco dei Radiohead non l'ho ancora ascoltato. No, non è ancora sentito. Però sono quasi sicuro che quello che dirà lui adesso... Sarà giusto. Sono sicuro perché l'ho sentito partire bello carico. Quindi... Ti ringrazio, però non credere, perché guarda, io sui Radiohead ho una sensazione, ho un'impressione, cioè ho un'idea mia. Allora, sono stati per me, personalmente, la band che negli anni 90 mi hanno veramente devastato, perché io ho cominciato a sentire i Radio dei primi 3 dischi e ho detto, questi hanno trovato il modo nuovo di suonare, erano la mia band preferita. Col quarto disco, quello famoso, io non ho più capito niente. Il che non significa che non siano artisti, anzi, quelli sono artisti con la maiuscola, perché quella è gente, come dici tu, che mette il loro disco. Il disco precedente, correggimi se sbaglio, è stato venduto solo via internet. Dopo è stato venduto anche dopo. Con un'offerta, cioè la gente metteva quello che voleva. Ecco, questo la dice lunga su che tipo di musicisti sono. L'hanno fatto col disco precedente, che penso che i loro problemi economici non ne abbiano più avuti da un po' di anni. Sì, è vero, certo, questa è gente che lavora con le spalle coperte, sono d'accordo. Però intanto lo fanno, come gli stessi Pearl Jam, che sono una band che ancora oggi fa i dischi in presa diretta, cosa... Anche loro 9 brani in quest'ultimo CD. Anche loro 9 brani sono comunque persone che, hai ragione, economicamente stanno bene, però credo che credano veramente in questo, in quello che fanno. Cioè, certo, è più facile farlo quando hai soldi, però intanto lo hanno fatto. Qualcuno ha i soldi e non lo fa, per capirci. Ecco. Mm. Per cui io sui Radiohead oggi ho un'opinione. No, non mi esprimo perché a me attualmente non piace. Ma sapevo che dici, infatti sono d'accordo con te. Anche perché io aggiungo, aggiungo di più. Io sono d'accordo perché secondo me Thom Yorke a un certo punto è andato via di testa. Sì. Però sì. È un difetto secondo me che hanno tutti i grandi cantanti. Lo stesso Eddie Vedder, lo stesso Michael Stipe. Sì. Secondo me, lo stesso Bono, che ad esempio, arrivano a un certo punto che credono di essere diventati onnipotenti e vanno via di testa. Anche secondo me. Dopo, per carità, e io non sto a perché suono, i dischi sono belli, io li compro. Quello del Radiohead volutamente non l'ho ancora ascoltato perché ho scoperto che è meglio aspettare un po', perché andare a prenderselo appena ancora prima che esca non va bene. Aspetta un po' di tempo così lo giudichi meglio, perché sennò sei troppo preso dall'onda del momento. Grande. Però il problema è proprio questo, che Thom Yorke è uno di questi. Lui ha fatto, fino a OK, è arrivato all'album OK Computer, che è un capolavoro secondo me, il 97, che è un disco che avrò ascoltato migliaia di volte. Sì. Poi a un certo punto deve essere scattato un click, perché hai cominciato a fare delle esperienze, secondo me è andato via di testa completo. Dopo che dopo tu dici che è un genio, a me va bene, però è andato via di testa. Bravissimo. Poi io veramente noi siamo incredibili, ci siamo conosciuti. No, ma mi piace perché hai la grinta quando scatti, vedo anche, è proprio quello, cioè bisogna, c'è poca gente che ha il coraggio di dire le cose in questo modo qua, quindi è giusto dirle. Ti ringrazio tantissimo, mi emoziono. Ma sì, e hai detto una cosa che mi trova perfettamente d'accordo. È vero che è un genio, attenzione, il genio non è detto che questo voglia dire che comunque che tutto quello che fa il genio sia bellissimo. Allora, Thom Yorke, hai ragione, anche secondo me è un genio musicalmente, ma anch'io mi ritrovo nella stessa tua, che avevo già detto, i primi tre dischi per me sono stata veramente la band che negli anni 90 ha cambiato, cioè ha segnato un modo di fare rock, quindi come dire, c'è sempre spazio per avere delle idee. Loro hanno avuto devastanti i primi tre dischi, OK Computer, cioè veramente li ho ascoltati e ho detto, ma chi sono questi? Ma senti che sonorità, senti che modo di suonare le chitarre, senti che voce. E dopo anche secondo me si sono persi. Tra l'altro il fatto proprio di capire che hanno fatto dei dischi meravigliosi, che dopo OK Computer, quante band hanno cominciato a suonare come i Radiohead? Sì, gli stessi Muse. Sì, sì, ovvio. Gli Muse, il primo disco dei Muse, che secondo me è molto bello, e adesso anche sui Muse potremmo dire un sacco di robe, ma è meglio che vadano a fare qualche altro mestiere. Ma il primo disco dei Muse è meraviglioso. Beh, io non vorrei adesso, ma adesso lui viene al posto mio. Non ci siamo preparati suo, perché diciamo le stesse non cose. Non ci siamo preparati nulla, chiedo scusa, mi auto escludo dall'incontro. No, ma io la penso esattamente, il primo disco, ma veramente adesso non è per il primo disco dei Muse, è un capolavoro assoluto. Dopo, anch'io li ho presi, dopo siamo su quella falsa riga, esattamente. Succede agli artisti, ripeto, stiamo parlando di artisti di grande livello, certo, quindi capiamo, ci stiamo, però giustamente dall'artista di grande livello ti aspetti qualcosa di grande livello. È giusto anche che sia così, se no è troppo facile, ripeto, se no torniamo nello scontato, nel banale. Certo, ritornando al vostro disco, i punti di riferimento, come hai detto, di redazione, cioè dove si può trovare la produzione, tutte queste cose. Aspettavo questa domanda. Esattamente. Allora, noi ribadiamo questo disco che si chiama Quasar, come noi, prodotto dalla Earth RMP di Simone Chivilò e di Valente Claudio, che sono due cari amici che salutiamo. Non è distribuito, ovviamente, nel senso che è un disco indipendente. Lo potrete trovare ai concerti, lo potrete trovare dove troveremo lo spazio per presentarlo. Noi siamo seguiti anche come, è giusto dirlo, perché siamo qua grazie anche ad Andrea Manzo, che salutiamo, per i soliti sospetti, che è il nostro ufficio stampa che ci sta seguendo, che si è appassionato al progetto. Noi abbiamo conosciuto Andrea da poco, ma devo dire che ci ha fatto subito una bellissima impressione. Siamo contenti che lui abbia abbracciato questo progetto, quindi lo saluto calorosamente. Noi presenteremo questo disco, approfitto per dirlo, siamo riusciti miracolosamente, perché è vero che è così, a trovare delle date per presentare questo disco. Allora, il disco lo presenteremo in anteprima il 16 aprile al Petit Petit, che è un locale di Cessalto. Ingresso, è inutile dirlo, ma l'ingresso è gratuito a tutte le volte che suoniamo. Ovviamente. Sappiate, non ci sarà da pagare, magari. Ingresso gratuito. Poi noi avremo un'occasione a Maserada di Treviso il 7 maggio di suonare in un bellissimo festival di cui farà parte anche Tolo Marton, un'altra band trevigiana che è la mia ex, la mia band con cui suono ancora, era dai Quarto Profilo di Treviso, e ci saranno tanti ospiti, e quella è una bellissima occasione dove ci saremo anche noi come Quasar. Il 21 maggio suoneremo al Perla di San Donà, e poi avremo il 29 maggio al BHR di Treviso, un'altra occasione importante per suonare per noi. E naturalmente io non cito i siti, perché secondo me non serve a niente. Tutti sanno che se cercano Quasar Rock Band su Facebook ci troveranno, e se trovano Quasar Band su MySpace troveranno tutto quello di cui gli serve. Non sto a dire l'indirizzo. Perfetto. Tutti nel disco, oltre a voi quattro, chi ha suonato? Sì, hai ragione. Salutiamo e ringraziamo naturalmente i mitici Christian, Micheletto e Feltrin Marco, basso e batteria di questa band. Esatto. Che non so se sono all'ascolto. Io, Marco, io spero, no, perché di non sì. C'è Cristian, non lo so, spero di sì. Ma è tardi, sono Cristian, letto, loro sono dormono, siamo noi nottamboli, sì, loro vanno a letto presto qua, questo è da chiarire. E naturalmente anche Simone Chivilò ha suonato delle certo. chitarre. Diciamo anche che il disco è stato registrato al Venice Studio, sì, nello studio di Giorgio Mantovan, che è un musicista, un chitarrista, anche lui è molto grande, sì, chitarrista. Siamo esatto. stati veramente bene, anche questo sì, vuol dire. Noi abbiamo registrato un disco in assoluta serenità, e questo aiuta molto, perché tu arrivi certo. ovviamente inevitabilmente a registrare un disco che ti porti dietro una certa tensione e tutto quello che ci sta dietro. Siamo stati molto bene, ringraziamo di questo. Io credo la parte pubblicitaria l'ho fatta tutta. Bene, hai detto una cosa che doveva essere quindi detta. Nessuno potrà criticarmi, lo dico pubblicamente, quindi ho citato la caffia e più hai citato fatto tutti. Hai citato tutto. Sentiamo un pezzo dal disco. Che traccia abbiamo scelto, Marco? La sette lingua. Perfetto, yeah. Ok. Yeah. Rock Wave. L'onda del rock. Oggi, passata la tempesta, buttata via la sabbia, rimane un chiodo che ferisce ancora me, ferisce ancora. Cerco di avere un Ok, ci siamo, ci siamo. Non avete ancora finito, no. Dovete suonare prima di finire, quello è fondamentale. Abbiamo sentito questo altro pezzo, ancora decisamente tosto, forse il più tosto di tutti, o no? Siamo a livelli molto alti. Stavo... Lingua è questa. Sì, è un ritmo molto incalzante, è vero. Esattamente, sì. Ma è volutamente che sia così. Sì, cioè, sì. A me piace molto, non so se è stata, se è praticamente nella scaletta, non mi ricordo. A me piace la traccia conclusiva, che è molto ipnotica. Niente che rimane. Esatto, molto strana. Strana nel senso, non è che sia strana rispetto alle altre otto, però volutamente ricercata in una certa maniera. Ti comunico che c'è nella scaletta. Ecco, vedi, perfetto. Grazie. Va bene, a me interessava molto, l'ho sentita più di una volta e cercavo di capire come è stata confezionata, non è stata sistemata, non è stata costruita come gli altri pezzi. Ogni pezzo ha la sua costruzione, ben inteso, però è leggermente diversa. Adesso però suoniamo dal vivo. Cosa suoniamo? Ci resta... Sono in te. Sono in te. A proposito, quanti pezzi vi rimangono? Ma noi avremmo... da suonare dal vivo. Nostro, se c'era lo spazio... Adesso facciamo così, allora. L'idea, anche Marco sarà d'accordo. Suoniamo un pezzo dal vivo, poi... Quello che piace a me, e poi finiamo con un pezzo live ancora che avete scelto, una cover. Bravissimo, una cover di un artista che sorprenderà, che non ti aspetti, che forse neanche Marco può immaginare. Glielo diremo. Ok, sentiamo allora il pezzo live che adesso suonate. Vai. Davanti agli occhi, cieli grigi e piogge blu, ma non ti sporchi se non le tocchi. Davanti agli occhi, muore il bene e l'onestà, ma se non guardi resterà la normalità. Mentre l'alba splende, magnifica e sincera, dalla terra nasce la mia preghiera. Sono in te, sono in te, sono in te. Passeggi sola, cosa pensi ora che prosegui il volo sopra il mondo? Hai riscoperto gli occhi veri e l'onestà, ti scaldo dentro, così io ti sento. Le lacrime si asciugano, le nostre anime si accendono di un fuoco candido. Sono in te, sono in te, sono in te. Che abbiamo sentito questo pezzo live, sono in terra la traccia numero 2 praticamente, mm-hmm. E abbiamo sentito quasi per ultima, è una bella cosa, esatto. È perché i live si fanno così, non c'è una scaletta prefissata, l'ispirazione è quella che conta secondo me. Marco, sì, abbiamo deciso di far sentire un momento la traccia numero 9 che a me piace particolarmente, 30 secondi per spiegarlo, un secondo e poi la sentiamo. Sì. 10 secondi per spiegare questo pezzo che si chiama Niente che rimane. Sì. Questo pezzo ha una peculiarità che in realtà è abbastanza presente nel nostro disco, cioè sono quelle famose canzoni scritte a più mani. Cioè io e Andrea abbiamo scritto questa canzone insieme, in che senso? Io ho scritto il ritornello, Andrea ha scritto la strofa. Ah, ok. Cioè nel senso, musicalmente questa è una cosa che a noi ogni tanto succede, è una cosa non è frequentissima da quello che so, avendo letto, conoscendo nella musica, ma a volte noi riusciamo a combinare queste due cose e accorgerci come non dico unendo pezzi diversi, ma scrivendo pezzi diversi anche negli stessi testi, a volte le cose ci piacciono. Tra l'altro faccio notare come io non sono assolutamente un cantante. La cosa bella è che quando io magari presento ad Andrea una canzone e gliela canto, lui dopo mi dice: ma senti, io però la canterei così. E quello che io sento cantare a lui è estremamente molto migliore di quello che canto io, tant'è che dico: ah beh, perfetto, e questa diventa okay. La tua canzone. E questo pezzo effettivamente nasce, tra l'altro c'è una parte C a cui che dobbiamo anche, allora noi abbiamo collaborato per un periodo e approfitto per salutarlo, perché esatto, così bravo. Abbiamo salutato tutti, con Carlo De Bei, che tu conosci, sì, che è l'arrangiatore di Mango, arrangiatore chitarrista, è un nostro carissimo amico, certo. Per un periodo ha seguito questo progetto. Noi speriamo che se è all'ascolto lui si ricordi che noi lo vogliamo ancora in questo progetto, okay, e lui in questa canzone ha collaborato indicandoci la strada per la parte C che sentirete, cioè quella parte un po', diciamo, diversa all'interno del pezzo. Quindi in realtà bisognerebbe dire che è nato a tre mani questa, a sei mani, perché c'è anche una collaborazione sua. Questa è una cosa che non ci succede spesso, ma ci siamo accorti come il nostro interagire è bello, anche perché riusciamo a unire anche idee diverse e farne una canzone. Sotto tutti i punti di vista, sia nella scrittura dei nella testi, scrittura della musica, nella melodia, certo, locale, nella musica comunque. Benissimo, adesso lo sentiamo allora. Traccia numero 9. Agli occhi rimane solo la polvere. Pian piano ricopre ogni poesia, giardini di sabbia e ghiaccio appaiono tutto intorno a me, all'idea del buio che hai lasciato dentro di me. Non c'è niente. Copro di neve per scaldarmi un po', agli occhi del mondo non c'è più posto per me. Chi ha fame si nutra, chi ha freddo si copra, chi dorme si svegli, perché questo non vale per chi uccide. Sorriso che brucia la mia pelle. Ora lo so, non c'è niente che rimane. Se vuoi dimenticare, non c'è niente da salvare. Se da un sogno ti lasci svegliare, non c'è niente che rimane. Eccoci qua, stavolta abbiamo veramente finito, è mezzanotte, 1 minuto e 10 secondi. È stato piacevole questo viaggio con i Quasar, con il loro disco di esordio che uscirà, come abbiamo detto e ripetuto, ma ripetiamo, fra il 15 aprile e il 16 aprile lo presenteremo al Petit Petit di Cessardo. Perfetto, io ringrazio della partecipazione quindi Andrea ed Edoardo, che sono i rappresentanti di Quasar stasera. Gli altri due, il bassista e il batterista, ci sentiranno o ci hanno sentito. Ci sarà la possibilità, adesso gli telefoniamo, così se dormono li svegliamo. Poi c'è la possibilità col podcast di risentire il programma, grazie. Quindi grazie. No, ma dovete anche chiedergli in che ordine hanno suonato i pezzi per capire se hanno ascoltato il programma o meno. Sì, sì. È vero, e ringraziamo per questo anche Alberto Prisco, che è il nostro curatore e organizzatore di tutti i live, compreso questo. Esatto. Con cosa ci salutate? Beh, allora, adesso vogliamo deliziarvi con un pezzo di uno dei nostri artisti preferiti. Adesso canteremo qualcosa, sì, non in inglese come i CD che ci portiamo nell'isola, ma in italiano. Questo è un pezzo di Massimo Ranieri e si intitola Se bruciasse la città. Ok, buonanotte a tutti e grazie. Ciao. Grazie. Il cuore mio non dorme mai, sa che di un altro adesso sei. Tua madre va dicendo che a maggio un uomo sposerai, ma se in fondo al cuore tuo c'è un ragazzo, sono io. Ma chi l'ha detto, ma perché non devo più pensare a te? Nessuno sa chi sono io, ma il primo bacio è stato mio. Impazzisco senza te e ogni notte ti rivedo accanto a me. Se bruciasse la città da te, io correrei. Anche il fuoco vincerei per rivedere te. Se bruciasse la città, lo so, tu cercheresti me. Anche dopo il nostro addio, l'amore sono io per te. Il cuore mio non dorme mai per inventarti accanto a me. Non brucia mai questa città, c'è ancora un uomo insieme a te. Ma se in fondo il cuore è tuo c'è un ragazzo, sono io. Quel prato di periferia ti ha visto tante volte mia. È troppo tempo che non sa dov'è la mia felicità. Impazzisco senza te e ogni notte ti rivedo accanto a me. Se bruciasse la città da te, da te io correrei. Anche il fuoco vincerei per rivedere te. Se bruciasse la città, lo so, tu cercheresti me. Anche dopo il nostro addio, l'amore sarà.